doveva esserci il mercato, invece anche oggi non c'è. Speriamo nella prossima volta, anche perché vabbè, noi non facciamo conservati, quindi i nostri non è che vanno a male, però abbiamo anche un po' di frutta e verdura che oggettivamente, se il mercato non parte, tra un po' non avremo più, perché essendo in montagna anche noi non riusciamo a avere un granché, insomma, fino a che non arriverà la roba invernale, e quindi speriamo che parta abbastanza in fretta, perché la nostra roba, anche se non va male, ma va venduta, insomma, i nostri conservati devono essere venduti, perché altrimenti nei mercati va male. Allora, voi non siete coltivatrici, però fate comunque parte dell'associazione di Campi Aperti. Sì, siamo qua parte dell'associazione di Campi Aperti, io ho anche avuto un banco di fiori fino a un certo punto, però insomma, ma non ha importanza questa cosa, dai, toglila, non è... perché a me piace essere parte dell'associazione, nel senso che ritengo che sia un'associazione assolutamente valida per i principi che porta, che insomma la filosofia che cerca di espandere nella città, permettendo ai contadini di venire a vendere i loro prodotti biologici in città e promuovendo la sovranità alimentare. Ecco. E oggi ci sarebbe dovuto essere al mercato e insomma non c'è neanche oggi, quindi cosa ne pensate? È una grande delusione, perché ci si aspettava che comunque l'amministrazione comunale comprendesse i valori di questa esperienza di Campi Aperti, che non è semplicemente un mercato, è qualcosa di più, è un'attività collettiva, di un collettivo, di tante persone che si sono messe assieme per cercare di costruire una rete di economia solidale, e quindi di prossimità, di vicinanza, e quindi anche un indotto per tutta una serie di valori che vanno dall'ambientalismo all'eticità del lavoro, all'agricoltura, ai principi dell'agricoltura biologica e così. Per cui vedermi sconosciuta tutta questa serie di caratteristiche da parte di un'amministrazione che si reputa sensibile, diciamo, fa ancora più, fra virgolette, dispiacere, diciamo, insomma, ecco. Sì, io credo che la delusione sia grande, non solamente per noi che siamo di Campi Aperti, per i produttori che lavorano, ma soprattutto per il quartiere, per i cittadini che da 3 anni hanno richiesto la presenza di questo mercato qua, e che dopo ostacoli, interruzioni di trattative, eccetera, sembrava che finalmente si realizzasse, e anche oggi appunto purtroppo stanno venendo in molti convinti di trovare un mercato e invece rimangono delusi. Io sono stato all'incontro con Aitini e Aitini alla fine mi ha stretto la mano, e per me una stretta di mano, visto che sono un contadino, è come un contratto firmato, per cui chiedo il rispetto del contratto. Tutto lì. Io sono tra quelle verduraie che ha programmato un anno intero le semine e i trapianti per questo mercato, e anche oggi non si parte. Un continuo essere, diciamo così, tra virgolette, preso in giro dal comune. Non riusciamo a capire perché non si sostenga un'agricoltura così pulita, trasparente. Questa realtà di Campi Aperti, Bologna, Italia, un esempio per tutti che dovremmo vedere, valutare. Non capisco perché il comune fa veramente così questo tiramolla. Fatto sta che siamo in tanti che ci ritroviamo così un po' a dover dare agli animali la verdura che abbiamo prodotto. Speriamo che questa questione si possa risolvere in pace.